Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, siamo entrati nel mese nel quale ricorderemo il 150enario dell'unificazione nazionale. Ne parleremo tutto l'anno, dedicheremo anche una puntata a questa scadenza, ma insomma marzo è certamente il mese clou. E allora avviciniamoci a questa data, alla data nella quale poi ricorderemo il 17 marzo il 150enario preciso. Ci avviciniamo a questa data con un libro sull'idea dell'Italia, un libro di Francesco Bruni che si intitola appunto Italia, vita e avventure di un'idea, è pubblicato al Mulino, 550 pagine, 35 euro. Ricordiamo tutti la famosa frase che ha segnato il formarsi dell'unificazione nazionale: fatta l'Italia occorre fare gli italiani, una frase che forse non fu neanche pronunciata da colui al quale è stata sempre attribuita, cioè Massimo D'Azeglio. E in effetti l'autore dice che questa frase può anche essere messa in discussione. Infatti Bruni vuole sottolineare i tratti di un'identità nazionale che in fondo esisteva e che a suo parere è stata segnata per esempio da due grandi tradizioni che hanno ugualmente avuto un peso importante nel formarsi di questa identità. Da un lato l'eredità classica e dunque la familiarità con gli antichi e la fede nelle attività in cui si manifesta la libertà umana, come spiega lo stesso autore, e dall'altro lato l'adesione alla fede religiosa come patrimonio di affetti e di idee, quindi la forza della cultura cattolica. Da questi elementi è emersa appunto un'identità che contraddice alla visione tradizionale di un popolo che sarebbe devastato da una debolezza morale congenita e dunque portato a un collettivo complesso di inferiorità, e per questo il libro cerca di fare una disamina, per questo il libro cerca di sbrogliare, come dice l'autore stesso, la matassa di un'idea ricca di significati nell'intento di offrire una lettura storica non ripetitiva dell'esistente. Ma sentiamo dall'autore a che cosa possa servire oggi questo esame. Buongiorno a Francesco Bruni. Buongiorno. Francesco Bruni, allora lei ha scritto questo libro, spiega, per sfatare molti luoghi comuni sull'identità italiana. In primo luogo sottolinea questa fatale predisposizione alla leggerezza morale di cui sarebbero vittime gli italiani. Ecco, quali sono gli elementi più forti di questi luoghi comuni? La leggerezza morale che risale al tempo delle guerre di religione che si combattettero in Europa tra la metà del 500 e la metà del 600. Questo periodo è stato una grande fabbrica di stereotipi nazionali. Ce ne erano di più antichi, già Petrarca accusava i francesi di leggerezza, ma le guerre di religione hanno fatto degli stereotipi di ferro che inconsapevolmente ancora oggi non si sono arrugginiti e sarebbe tempo che arrugginissero. A un certo punto lei dedica un capitolo all'onda della cultura italiana, anche questo sì. È un po' uno stereotipo da rovesciare, c'è stata un'influenza costante e permanente della cultura italiana? La cultura italiana è stata la terza letteratura classica dal 300 fino alla metà del 600. Il 600 è comunemente presentato come un periodo di decadenza, però c'è molto da correggere in questa visione. Il fatto è stato che al tempo della Francia di Luigi XIV la cultura italiana fu messa sotto attacco perché la potenza imperiale francese, Luigi XIV ambiva a presentarsi come un nuovo Augusto, fece largo anche alla lingua e alla cultura francese e gli italiani ai primi del 700 riuscirono a imbastire una difesa corale che da Milano arrivava fino a Napoli, passando per Roma, per Firenze, per centri apparentemente minori come Modena o Bologna, e si attestarono sulla linea del Piave, che nella storia letteraria fu identificata con il Tasso. Il Tasso era l'ultimo autore difendibile in questa prospettiva, furono ceduti senza combattere 100 anni di barocco, ma se fosse stato ceduto anche il Tasso, la letteratura italiana sarebbe stata condannata ad essere ormai una letteratura morta, vale a dire come la letteratura splendida medievale francese, che è una regione separata dalla letteratura moderna. Attraverso questa difesa e questo contrattacco culturale, senza avere uno Stato alle spalle, ma condotto da quella che allora si chiamava la Repubblica dei Letterati, la letteratura italiana salvò quella bella continuità della quale dovremmo essere orgogliosi, che dal 300 arriva fino ai giorni nostri, cosa che non avviene in nessun'altra letteratura europea, né romanza, né germanica, né slava. Tutte cominciano molto dopo la loro fase moderna. Ecco, parliamo invece un po' di politica e facciamo un passo indietro nel tempo. Lei sottolinea il ruolo di Machiavelli, un ruolo che ha avuto sia nel contribuire ingiustificatamente a costruire l'immagine negativa dell'Italia da un certo punto di vista, ma soprattutto lei sottolinea il ruolo importante che ha avuto nel costruire quello che lei scrive essere l'orizzonte convintamente italiano di Machiavelli. Machiavelli è un grande patriota, e questo chi conosce l'ultimo capitolo del Principe, l'esortazione a liberare dai barbari, un'esortazione che rimase lettera morta al momento, lo sa. Però Machiavelli è responsabile per aver indicato nello Stato della Chiesa quello Stato che non era abbastanza forte da portare avanti e realizzare l'unità politica del paese e non era abbastanza debole da non poter impedire ad altri di fare lo stesso lavoro. Perché poneva questo problema? Semplicemente perché si erano affacciate prepotentemente in Italia con eserciti potenti gli stati nazionali della Francia e della Spagna, e poi la Spagna dominò per due secoli e più il nostro paese, come si sa. Allora, il problema qual è? Che Machiavelli imputò la responsabilità del frazionamento politico italiano allo Stato ecclesiastico, e questo però non è vero, perché era un gioco di tutti gli stati quella che fu detta la politica dell'equilibrio. Pensi che Balance of Power, in inglese, non è altro che la traduzione di Lorenzo dei Medici, ago della bilancia dei poteri in Italia. Vale a dire, è Lorenzo il Magnifico, capo di Firenze, che porta avanti questa politica dell'equilibrio, e lo stesso facevano gli stati di Milano e la Repubblica di Venezia. Il torto di Machiavelli è perdonabile, meno perdonabile è la passività con la quale una tradizione storiografica pregiudizialmente avversa alla tradizione cristiana, cattolica del paese, ha ripetuto e amplificato quello che Machiavelli, che non era credente, come ovviamente siamo pronti ad accettare oggi, ma anche ieri, Machiavelli aveva fatto una diagnosi da correggere. Il guaio è che questa diagnosi la si continua a ripetere in maniera passiva, e forse nel 2011, anche senza il 150° che ci tira le orecchie e ci dà lo svegliarino, sarebbe tempo di fare un ragionamento storiografico più equo. E magari arrivare a essere un pochino più fieri del nostro paese. Oddio, anche questo è un grosso problema. Il paese è chiaro che non si piace, per usare un'espressione di moda che si usa per gli individui, e si vergogna di se stesso, e certo questo non aiuta a migliorarci, perché abbiamo bisogno di migliorarci, di rispondere alle cosiddette sfide della società globale. Ma certo, nello stato di autoprostrazione nel quale ci siamo cacciati, questa sfida è difficile da reggere. Grazie a Francesco Bruni, autore di Italia, vita e avventure di un'idea. Buona domenica. Grazie a lei, buona domenica. Un'altra idea, ancora più magmatica di quella dell'Italia, è quella di Europa. E di nuovo ci può venire in soccorso un libro, una storia che ricostruisce i primi passi di questo percorso che ha portato alla concezione, all'identità di quello spazio che noi appunto chiamiamo Europa. L'autore è Peter Ether e il suo libro si intitola L'impero e i barbari, le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa. È pubblicato da Garzanti, 320 pagine, 42 euro, ed è tradotto da Serena Lauzi. Questo è un libro adatto per gli appassionati di storia, che troveranno qui una lettura molto gradevole anche per lo stile, che è costata però anni e anni di lavoro all'autore. In effetti, con le sue pagine, lo storico vuole percorrere veramente l'Europa, al seguito delle migrazioni che sconvolsero l'impero romano e diedero vita a un fenomeno che non siamo stati certo noi ad inventare, come ci illudiamo, la globalizzazione. Entrando infatti in contatto con Roma, i barbari entrarono in un flusso commerciale, spiega Ether, che si trasformò col tempo anche in ordinamenti istituzionali. Sentite come funzionò questo processo da queste righe che vi propongo. Quello che abbiamo sotto gli occhi è a tutti gli effetti un precoce esempio di globalizzazione. Un'economia agricola assolutamente sottosviluppata e fondamentalmente di sussistenza, con una scarsa diversificazione della produzione e degli scambi commerciali e un'altrettanto scarsa stratificazione sociale, si trovò a contatto con l'economia altamente sviluppata e con le potenti strutture politiche dell'Impero Romano. Insieme, la nuova ricchezza circolante e le lotte per incanalarla e per limitarne l'aggressione romana finirono per dare vita a società più stratificate, dalle quali potevano sorgere nuove entità politiche. Sommandosi l'uno all'altra, l'impero e la risposta delle popolazioni indigene generarono la nuova Germania del periodo tardo-romano. E il fenomeno si può allargare perché le prime migrazioni, quelle predatorie, ebbero uno straordinario rilievo per costruire l'Europa del primo millennio, ma soprattutto contarono le interazioni, per cui, conclude il suo libro lo storico Ether, queste interazioni, non le attività migratorie, furono i responsabili ultimi della nascita delle nuove strutture sociali, economiche e politiche che alla fine del millennio portarono l'Europa, un tempo barbarica, ad assomigliare decisamente di più alla sua controparte, l'Europa imperiale. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di musica, parliamo di quattro compositori che ben conoscete, li riconoscerete subito dai brani che vi proporrò. Sentiamo il primo. Questo è Gustav Mahler, la Sinfonia numero 6. Di questo compositore quest'anno ricorre il centenario della morte e l'anno scorso era il 150enario della nascita. A proprio Mahler è dedicato un denso volume curato da Gaston Fournier Fassiot, che attualmente è il coordinatore artistico del Teatro alla Scala. Si intitola Il mio tempo verrà, è pubblicato dal Saggiatore, 742 pagine, costa 45 euro. E se rovesciate il libro troverete l'edizione anastatica di un breve testo in tedesco del 1922 che presenta una serie di immagini molto rare del compositore e del suo ambiente che vengono qui riprodotte. È un testo di Alfred Roller che viene poi tradotto nel libro. Le traduzioni di questo libro sono varie. In questo libro vengono raccolti vari brevi testi che dal 1901 al 2010 sono stati scritti su questo grande compositore. Sono testi di persone che lo avevano frequentato, di grandi personaggi a lui contemporanei, di grandi interpreti, di famosi musicologi. Ogni testo è presentato con una breve nota sull'autore di quel testo e sullo stesso scritto. Insomma, una vera miniera per gli appassionati della musica di Mahler e della musica del Novecento, che troveranno qui molti elementi per approfondire la loro passione. Vi propongo da questo libro queste brevi righe di Quirino Principe che, oltre a far capire il titolo di questo libro, ci illustrano efficacemente la fortuna critica, forse in parte un po' deformata, del grande compositore. Viviamo in tempi strani. C'è una frase arcinota detta da Mahler, tanto divulgata che si è quasi frenati dal pudore nel ripeterla. Verrà il mio tempo. Ma se esiste un caso Mahler, esso non è una scoperta tardiva. È una visione improvvisa e dimezzata, cieca ad un occhio. Meno di 20 anni fa Adorno poteva ancora scrivere «Oggi Mahler è odiato» e spiegava «Il pubblico prova rancore per una musica in fieri che tende a superare se stessa, che non dà conforto e non appaga come dato di fatto». A quel pubblico si dava, tra il 1950 e il 1960, la taccia di reazionario e filisteo. Oggi Mahler è adorato e l'adorazione ha rotto gli argini e balza agli occhi nella disastrosa fortuna di cui egli ha goduto lungo gli ultimi 10 anni, il motivo per cui la sua musica ora serve. Musica, questa volta sì, con tutti i comforts. Musica di arredamento. Magnifico sottofondo a una conversazione religiosa, o a un film erotico con problemi, o, nei casi più colti, a una mostra sull'espressionismo. C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Abbiamo cambiato genere con Eugenio Finardi, che ha scritto con Antonio Gidenrico il libro Spostare l'orizzonte, come sopravvivere a 40 anni di musica rock, pubblicato da Rizzoli, 238 pagine, 18 euro. Questo ritratto molto delicato del cantautore, colto nella propria intimità domestica, ma non solo, che racconta della sua famiglia d'origine, della formazione musicale, delle proprie idee, del proprio atteggiamento nei confronti della società, della politica e della vita. Scende ruzzolando dai tetti di lamiera, indugiando sulla scritta, bevi Coca-Cola. Scende dai presepi vivi, appena giunge sera, quando musica e miseria diventan cosa sola. La gioia della vita, la vita dentro agli occhi dei bambini denutriti, allegramente malvestiti, che nessun detersivo potente può aver veramente sbiaditi. E corre sulle spiagge atlantiche seguendo il calcio di un pallone, per finire nel grembo di grosse mamme antiche dalla pelle marrone, che s'agita nel sangue delle genti dai canti e dalle risa rinvigorite, che nessuna forza per quanto potente può aver veramente piegate. E questo è un altro mito della musica italiana, Lucio Battisti, di cui è proverbiale la discrezione e la lontananza da giornalisti e interviste, che praticamente odiava, eppure se ne fece fare una su Ciao 2001, la rilasciò a Renato Marengo, che ora rievoca quell'episodio e quell'intervista nel libro Lucio Battisti, la vera storia dell'intervista esclusiva, con un saggio di Gianfranco Salvatore, pubblicato da Coniglio, 174 euro, 14,50 euro. Questa intervista nel 1974 seguì l'uscita di Anima Latina, il brano che ci ha accolto, vincendo la proverbiale riservatezza del cantautore. E quel giornale, che normalmente vendeva 70-80 mila copie, con quell'intervista ebbe un vero boom e vendette in quel numero oltre 400 mila copie. L'intervista era stata la ricaduta di una serie di conversazioni nelle quali Marengo e Battista avevano parlato di tutto, anche di politica, e all'autore non era parso vero di chiedere a Battisti se fosse davvero fascista, come era allora la voce che circolava. Sentite come rispose il cantautore. «Ma di che parli?» rispose Lucio. «Di che cosa stai parlando? Guarda che io non mi interesso assolutamente di politica. Non me ne sono interessato mai. È proprio fuori dal mio mondo». Da quando ero ragazzino sono sempre stato talmente ed esclusivamente preso dalla musica, dalle registrazioni, dalla composizione, da prove, arrangiamenti, lettura dei testi, discussioni con Giulio, che anche volendo non troverei il tempo per comprendere cosa vogliano la sinistra e la destra. Io so che Giulio è socialista, così mi ha detto una volta. Questa è l'unica cosa di politica che conosco. Per il resto non parliamo mai tra noi di politica. Nelle nostre canzoni c'è amore, sentimenti, rapporti tra uomo e donna, rapporto con la natura, sensazioni. Non credo proprio che ci sia spazio per la politica. No, guarda, non mi sono mai interessato di partiti, di destra e sinistra, né me ne occuperò mai. Di una cosa sono certo, non credo proprio che per scrivere buona musica o belle canzoni si debba essere iscritti a questo o a quel partito. Thank you. Ancora un cambio di genere con Ennio Morricone, che ha scritto Lontano dai sogni, conversazioni con Antonio Monda, è pubblicato da Mondadori, 162 pagine, 18,50 €. Qui abbiamo un libro sulla storia della musica, ma anche del cinema, perché Morricone vi ripercorre i suoi successi con tanti registi famosi. E il grande musicista si mette a nudo in questo libro, illustra le proprie origini musicali che lo portarono a studiare con Goffredo Petrassi, e parla di una sua accesa critica alla Chiesa Cattolica, perché all'epoca del Concilio, scrive il musicista, egli non riusciva ad accettare che si mettesse da parte il canto gregoriano, che è un pilastro insostituibile della cultura europea e mondiale, e aggiunge Morricone: è proprio da lì che provengono le direttive e le radici delle mie composizioni. Nella musica modale, nel canto gregoriano, si trovano tesori immensi. Anche se poi Morricone conclude con la sua passione per la musica contemporanea, riconoscendo il ruolo rivoluzionario che molti musicisti hanno svolto in questi ultimi decenni, per esempio ricorda e sottolinea il ruolo di Arnold Schoenberg. Prima di salutarci vi ricordo che a Milano è in corso fino al 12 giugno la mostra dedicata ad Alberto Savinio, si intitola La Commedia dell'Arte, curata da Vincenzo Trione, si svolge a Palazzo Reale ed è organizzata da 24 Ore Cultura, che è la società che appartiene al gruppo editoriale al quale appartiene pure questa radio. In questa occasione vi propongo un gioco: gli ascoltatori potranno vincere due ingressi e un catalogo alla mostra. Le modalità per partecipare al gioco sono semplici: vinceranno i primi due ascoltatori che avranno inviato un SMS al numero 349-238-6666 scrivendo nome, cognome e il nome Savinio, per far capire appunto che si partecipa a questo gioco. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato tanto di musicisti, in questa seconda parte parliamo ora di una cantante che è al centro di un giallo veneziano per ragazzi, scritto da Antonio Ferrara, si intitola La cantante scomparsa e pubblicato da Nuove Edizioni Romane, 112 pagine, 9 €. E con questo ringrazio Margherita Aina e Claudia Carusi in redazione, Fabio Cantadori in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.